alle 10, c'è qualcuno che l'ha ascolto. Se ho capito che invece avevo sparato veramente. CQ 10. Un secondo dopo. Io aprirò questa porta e entreremo in un altro ambiente. Voi verrete con me e vedrete delle cose. Risponderò alle vostre domande. E vedremo di... Beh, comunque seguitemi. CQ10, c'è qualcuno in ascolto? Piano, piano. Antonello non me ne porta mai. perché di tutti quando c'erano allora che andavo io, andavo lì dove stavo praticamente, dove abitavo c'era il passo, era nominato lì, io andavo da, ce l'ho avuto il portolarma a 18 anni, io figurati, era piccolo, andavo con i miei cugini. E ha detto che il marito non gliele portava mai di queste, di questa roba. E lui andando in giro, ha giubilato, senti tordi, un cinghiale. E quella era gente che andava insieme al fucile, si portava il boccione del vino. Beh, io mi ricordo un caro amico che non c'è più. La scena, John Frami, va, sono andato, questo abitava nella cosa lì, andando verso Castelsardo, c'era la casa lì al mare, sono guvarato, ma il polpo, mi ha giubicato una dozzina, eccetera, ma perché non vieni da me? Vabbè, sentiamo, la sono andato io insieme con un altro collega lì, ciao, siamo scesi, guarda, ci sono stato tutta la sera, ma neanche a vederlo proprio uno, capito? E quindi ho detto, cro, la zona già è zona, ma mi pare che sia talmente sfruttata che qua no, anche le rocce si sono magnati. Mio fratello, i turpi, mi andava, lo sai cosa faceva? Quando andava di frodo, andava con la barchetta, andava. E si mettevano a portare da una parte e una all'altra, a cechi di vazia. Mario, avevano una marcia in più, tu devi pensare che quando facevano i parametri che andavano di frodo, no? Siccome lui era sposato a Porto Torrese, quando loro uscivano c'erano i portotorresi che li stavano tentando, gli buttavano il parametro vicino, loro non prendevano nulla e mio fratello e l'amico che erano di Sassa li pigliavano, e come se pigliavano. Sì, vabbè, ma quello dipende dall'esca e dal punto esatto. Qua invece è proprio un vero nulla, capito? Quando vai col fucile almeno lo vedi qualcosa. Nulla, deserto, deserto. E così stessa storia per la caccia. No, portate. Quante risate che mi sono fatto. Per i tempi. Adesso è andata lì di fare quel gioco lì, di andarci in zone strane, ti pizzicheggiano subito, perché ho visto che c'hanno tante autocivette anche, ad esempio a Cagliari adesso c'è distanza anche l'elicottero dall'alto, ingrandimento da niente ti fa. Con tutta la tecnologia che c'è oggi, ti pizzicano sì. No, mio fratello c'ha la licenza, va col pescherizio con un collega suo, vanno, a pesce spada loro, non ci va più di frodo, ma io ti parlo di tantissimi anni fa. E quando si era tutti, un po' tutti, come si dice, pissini bizzoni, no? Era appena sposato lì a Porto Torres. E quanti anni sono questa storia? Un sacco di anni. Ancora, dopo 17 anni. Siamo cominciati a andare a pescare con la canna, figurati. Però avevano una marcia in più questi. C'era lui e Luciano, caro, Luciano, una scena. Era bravissimo. Quello si è fatto anche case a Porto Torres dalla pesca, altro che noi. Ed è di Sassa di quello. Se è amico di mio fratello, sono sposati tutti e due a Porto Torres. E infatti, ce n'è, tante cose. Quando parli tu sento un segnale di, sembrerebbe una telescrivente. Così, a occhiometro, senza troppo impegno. Io ce l'ho qua, c'è a 7, perché se non c'è un bordello sotto, omicidiale. Me lo posso immaginare, si sentirà anche il televisore che è acceso, è basso, ma è acceso. Aspetta un attimo, lo sento. nata lì, basso basso. Già si è messo bene, ma il fucile come lo usavi? Avvicinato l'orecchio alla canna per vedere se usciva il proiettile. E giuro che era basso basso, è il microfono che è un po' sensibile. Era basso basso, adesso è spento, l'ho spento perché so che si sente. Me ne sono accorto adesso, ecco perché ti sto dicendo che è basso, perché non lo tengo mai alto io. Aspetta, un altro po' sentivo più il televisore che la tua voce. E infatti da lontano amplifica un bel questo. È per quello che me ne sono accorto che c'era il televisore acceso, ho detto cazzo, adesso sente più il televisore che a me. È così è nato lì. Noia. Cavolo, ma che caldo ragazzi, 29 gradi ciò. Sai cosa ti dico Natali? Accendiamo il condizionamento. E 29 gradi sono un bel cavolo. Luia. Ah, domani c'è quella visita. Speriamo di finire in fretta così mi avvio. Adesso non mi metto un direttore al comando. Figurati che poco fa mi è arrivata una cosa, un po' la bicicletta. Sono andata un po' a controllarla, ma c'era questo caldo, Natali, me ne è scesa la massa, senza fare niente, solo attaccando un oggettino, roba da un minuto, ma deve essere diciamo 43 gradi. Mamma mia, non si può anche io. No, qua già si sta bene. Già si sta bene qua. Così caldo non c'è. No, anche qua si sta bene, solo che fuori aperto, capito? Io ho il sole dalle 6 qua c'è già il sole, non c'è bisogno di luce. Su questo versante, su questo lato della casa, dall'altro lato che è esposto a est, a quest'ora c'è anche l'ombra, ti dirò, ma guarda, non ti puoi azzardare, infatti devi stare attento quando tocchi il portoncino blindato, sono dovuto addirittura modificare, no? le ho disabilitato alcuni pezzi della serratura perché come c'aveva le sbarre, no? Sai quei portoni di sicurezza che c'hanno dentro i passanti per azionare anche le serrature laterali. Quelli li ho dovuti togliere perché si dilatavano talmente che la serratura poi non funzionava più. Un casino, guarda. Ma se la toccavi con le masse fa adesso e ci appoggi la mano ti bruci. Già me l'avevi detto che diventava bollente la serratura, se la toccavi ti bruciavi. Io l'ho solo modificato quello di fuori, il pomello, no? Quello lì gli ho aggiunto un petto per farlo girare a vuoto, per non aprire, che ci vuole per forza la chiave da fuori per aprire, capito? Gli ho messo solo quel pezzo lì, infatti il pomello gira a vuoto. Sì, ma poi in campagna è inutile il portoncino blindato, se vogliamo entrare ci sono le finestre all'alza d'uomo, con una moletta di quella batteria, fa quello che vuoi, nei lampi, tutto quello che vuoi. Quello che importa invece è la sicurezza attiva. Io da qualunque parte sono, anche all'estero, posso controllare cosa succede a casa. C'ho sempre gli occhi elettronici. E poi anche se togli la corrente funzionano sempre. E ho un casotto. Perché anche gli animali, cioè i gatti li devi vedere, sono cercando ombra, si buttano lì e dormono per non passarci. Me lo posso immaginare, cazzo, mi ha telefonato mia moglie, è caduta la linea, boh. Ma va bene Natali, dai, io faccio un break perché devo controllare un'altra cosa, così me la finisco e sono a posto, però sono qua in ascolto. Se stai andando allora, buon proseguo. Grazie. sera mi guarderò la partita, quando c'è, che c'è l'Italia stasera. Ci sentiamo alle prossime, Gianfra. Ricordati di passare all'Enel, attaccare la luce lì, verso i punti. Un amico già ce l'ho all'Enel già. Peccato che non ho il numero, se no l'avrei telefonato e gli avrei messo lì punti al buio. Sì, però questa cosa dura fino a metà luglio, quindi poi dopo luglio, da metà luglio in poi c'è anche il Giro di Sardegna. E se no non è acchianito pericoloso per il ciclismo, Giulio. Anche quello gli piace a me. Attenzione, sul binario 10, doppio rum che fa chiamata, cambio. E Natali, ti lascio in compagnia di Gianni, che io vado a fare quelle cose che ti ho detto. Ci sentiamo dopo eventualmente. Ciao Gianfra. Avanti Gianni. Ehi, dai, sono in altura, come mi ascolti Natali? E con le orecchie, fa un passaggio. Prova, guarda il segnalito, cambio. 9:10 sta arrivando qua, la radio già lo sai, non c'è bisogno che te lo dica. Cavagava, già va bene, dai. Qua sono appena più su del quadrato, dai. Ho capito dove sei su per giù. Cavagava, solo sei da lì. Gianfranco è impegnato, c'era Gianfranco fino a poco fa, è entrato 5 minuti di chiacchierata, ci abbiamo fatto. Giulio è assente perché c'è la partita, e cosa vuoi? Meglio di parlare a noi, si guarda la partita. Vabbè, ognuno ha le sue preferenze. Io già preferisco stare qua che guardarmi la partita. Sono sotto un albero, all'ombra, mi sto prendendo il frescazzo. E fai bene, all'ombra di un verde albero bisogna stare, al fresco. Dice che c'è un caldo fuori, mamma mia. Io non sono uscito perché oggi sono stato troppo male, mamma mia. Non sono uscito per nulla oggi. E domani devo andare anche a fare quella visita a Platamona. Cavagava, vabbè, vai che magari va tutto bene, dai, non c'è problema. E un ecodoppler per tenere sotto controllo quell'arteria, e poi devo portarla a quel chirurgo vascolare, la risposta, ma il 19 devo andare a farmi la seconda dose del vaccino. Insomma, sei impegnatissimo questo periodo, peggio di me sì. Io devo chiamare al centro diabetico adesso per vedere quando mi danno l'appuntamento, se le stanno prendendo ancora. E poi mi devo fare l'analisi del sangue e andare a farmi controllare. Ma mi vado a tutte le visite, mamma mia. E a me lo dici. Quando vai a fare l'analisi del sangue, poi mi riferisci già a vedere com'è lì, dove vai tu, perché lì dove andavo io ho fatto i baga puzzinosi, ho dovuto pagare l'ultima volta, perché se arrivi tra i primi 5 non paghi, c'è l'esenzione, dopo pagano tutti, anche se hanno l'esenzione, e non è giusto, mi sa. Secondo me è una legge che ci hanno fatto loro, questa non è niente di... Ma no, non penso che sia una cosa lecita da fare. Infatti neanche io penso sia lecita, però loro fanno così, si di voi ribaghi e se no nuda. Allora lì alla Lassi non l'ho mai pagato io, perché ho l'esenzione, non mi fanno pagare nulla, mi dice solo dove le vuole a casa, io dico no, vengo io a prenderle. Vado sempre io a ritirarmi delle analisi, dopo 3 giorni me le danno, ecco come funziona, c'è la parte dove ci sono gli scalini che scendono al Fosso della Noce, a fianco al Cinema Moderno, e ci sono quegli scalini lì e c'è la porticina, quello lì è per i non prenotati. Se invece sei prenotato entri dall'altra porta. Sì, infatti. Io adesso vinchi via Risetti, cambio la giudizio, già devo andare a novembre, l'ho già fatta la visita io. infatti sono tutte cose che mi sta facendo fare la diabetologa. Anda bene Meda. E adesso come fa a stare senza mangiarti un gelato, cazzo, che c'è un caldo da morire? E mi ha detto, dottore, beve acqua invece che mangiarsi i gelati. Io le ho rubato, a chi non la bizzulleva? Cazzo, se io voglio un gelato, voglio di un gelato, mangio un gelato, per dire. Se voglio, me ne scendo a Platamona e mangio un gelato e poi me ne torno. Bisogna vedere adesso se ne ho voglia, forse me ne torno a casa, perché poi alle 7:30 devo andare a prendere l'aereo, quindi sto facendo un po' di orario, dai. Non sono ritornato a casa per lo stare andando e dormire. Sì, infatti. Ma non dice che ci sono quelli che puoi mangiare i gelati, mi dovevi dire come si chiamano, così me lo compro pure io. Perché io sono come te. Ho detto le bugie. Ah, allora già mi temi già. E se no stavo a dire, non le devi mangiare, boom, basta, allora ho detto bugie. Adesso che bastardo. No, io ti ho detto, attenzione che sta la glicemia, da giù di tu e basta, non avrei detto altro già. Ma poi attaccare i nastri. Come ti stavo dicendo, ci sono però quelli, ci sono quelli particolari gelati, quelli che vendono a Platamona. Se tu vai a Platamona vai da Ernesto e prendi i gelati allo yogurt, quelli lì sono quelli per diabetici, hanno il cioccolato, quelli senza zucchero li chiedi e loro ti danno quelli senza zucchero, sono gusti abbastanza buoni e niente, non c'è zucchero. E allora quando c'è andato, domani devo andare a Platamona, che dice da fare la visita meno un biglio, tanto devo andare a Zura a farmi la visita, quindi mia moglie a controllarmi non c'è. È vero. Natalino è come Pierino la peste. E i nonni vostri ce la visitano già. Cappa di nafuti, oi. Beh, vero già. Io mangio il tutto. Rinuncio a mangiare pure la Macedonia. Anche io qua, questo periodo sto mangiando frutta, se la bile luce, diabete. Se ho cazzo c'è un bel caldo, io non sto mangiando niente, sto mangiando verdura, frutta e gelati ghiaccioli, ghiaccioli a gogo. E che si mangiano in miniatura, non l'hai assaggiato ancora già. Cosa? Non mangiano in miniatura, oh, i bonari due. No, e dove lo vendono questo mugno in miniatura? Sì, qui a Conad. È piccolino, sarà 6-7 centimetri rotondo, con lo stecco, banarello. Ma cornetto è? No, proprio il magnum, tipo il gelato magnum, presente qui. Ci sono anche da ditta, lì sono grandi, quelli lì, tipo il magnum, così, sono ben buoni. Però io mangio di più ghiaccioli, perché almeno è ghiaccio e cose, non è che ti va di male più di tanto. E poi mi rinfrescano di più i ghiaccioli dei gelati normali. Per quello sì, all'arancio, a me piace, al limone. Io li mangio anche alla menta, mi piacciono bene alla menta. Ma me ti faccio il tutto. Vabbè, comunque questo periodo non si può stare senza mangiare un gelato, c'è poco da fare. Io quando lavoravo, cazzo che tu me ne frazzavo, uno dopo l'altro me li mangiavo, li vendevamo in negozio, quindi li compravo, pure me li mangiavo. Oh Luca! Infatti, dico a Natalino già, io ho 25 anni diabetico, ma mangio di tutto. E io non posso mangiare niente, che devo fare la preparazione, ma chissà la visita che faccio domani. Figurati. Cosa ti volevo dire? Ah, Lu. Allora Gianni, noi che si rimagna i gelati però no, si risbrana. Ma si risuccia. Gianni, se risbrana i gelati, se lo vedi mangiare i gelati ti fa bene. Cazzo, quello che vende Ernesto a Platamona, ci è mandati con la mia compagna a mangiare, lei ci ha preso quella la frutta, io me l'ho preso uno cioccolato, aspetta cos'era, cioccolato, fior di latte e panna montata con una spruzzatina di cacao sopra. Lei si è girata, ma è gelato, non vuoi più. Ma è frutta, magari gli dai, mi dai tutti la via sgranata. Lei la bella convincente, altro che mi dai, dice, ma non vi potevi aspettare, io lo mangio così, certo, e buco mi fa. E si lo sbrana, manco io ci riesco a tenerlo dietro. quando il mio a metà lui sarà già sbranato. Quando andavo a Malgheno, non so se siete mai andati, dove c'è la torre di fronte, c'era una gelateria che faceva quei gelati con la macchinetta, quelli tutti gingillati, praticamente a forma di cosa, di spirale, non li faceva. E praticamente andavamo io, mia moglie, i miei figli e cose, no, io li prendevo a loro, li davo, e con loro ce l'avevano in mano, io prendevo il mio. Mi davo i soldi, uscivano fuori, io l'avevo già finito, loro stavano appena cominciando. Sì, mi posso immaginare, già ti ho visto già io, non è che non ti abbia visto. Io prendo gusto così, a me non mi piace il gelato quando si scioglie, ti imbrutta tutto, a me, io non gli do il tempo di sciogliersi al gelato. Anche se è poco mai sicuro, non mi dà il tempo di sciogliersi con te. Ma lo sai dove sono, Natalino? E cosa ne so io, già? In un parcheggio famoso di tanti anni fa. La mamma per la più presente. Alle Querce, il parcheggio delle Querce. Io ho capito. Mi ha detto che sei sotto un albero lì, sotto un verde albero, al fresco. Sì, non proprio sotto, perché un pino, e se no mi butta la colla sopra, sono a fianco, tanto diciamo l'ombra la fa un bel lunga, capito? Perché è grande l'albero. E mi sono un po' spostato, se no se gli va la gola mi si attacca la macchina. Sì, chissà il nuovo la macchina. Se si fa la gola della cui meglio. Alle otto e mezzo non voglio essere disturbato da nessuno perché c'è l'Italia. Io non ne guardo mai le partite di calcio, solo l'Italia mi guardo, sempre quello qua. Le altre non le guardo. E anche io valido uno sguardatina così, non sono accanito come i certi. Mio padre, guai, si babidava, quando facevano loro brincavano i cacci a Gadria, Dutugà. E sino Giulio, adesso ci sono le partite, poi ci sarà il ciclismo. E Giulio se lo guarda il ciclismo, gli arugrini, è accanito. Partita e ciclismo. Era pugilato burro di Biasmo, mi pare. E mio padre era uguale, ciclismo, pugilato e calcio. Giulio era uno sportivo, che ero credo che ribiate. Io però il calcio non è che sono così, mi guardo solo quello della nazionale, perché è doveroso. Io giocavo, avevo la squadra, la Ranger, ero portiere, ma mi piaceva giocare e non guardare le partite, a giocare già mi piaceva. Sì, anche a me. C'era mio fratello addirittura, che era bravo, Angelo, mio fratello, giocava nella Villier, lì. Infatti Roberto lo conosce, il signor Giovannino, il padre, lo stesso lo conosce, è mio fratello. Perché la Villier è di loro e da. E il signor Giovannino è il presidente. Sì, già lo so. Era bravo anche Marco a giocare a calcio, addirittura stavano prendendo in continente, pagato e tutto, poi ha avuto l'incidente, ha mollato tutto. E già lo so, anche a mio fratello è lui che non ci è voluto andare, è Giubareddu, ed era bravo a vero. Lui, i miei cugini, sia Natalino che Cento. Vabbè, c'è che ragazzo è pesce. È proprio vero, perché Angelo era bravo veramente giocando a pallone. Già me lo ricordo che era fissato anche col filo, andava, lo seguiva quando lo portava a giocare a calcio, me lo ricordo bene. Ed è bravo anche come allenatore Angelo, e come pesista, infatti Angelo andava da tanti, da Peppino Tanti mi ha allenato, cazzo è poco va via una puzza. Però adesso ha perso tutto. E aveva 60 anni, cosa pretendi? La bozza aveva ancora, che travagliando ancora. Chiedo io è sano, grazie a Dio. Io che sono tutti carrungati. Vabbè. Se la vi avanti Luca. Che ci vuoi fa? Bene, sta andando sempre questo microfono già. Ehi, a che microfono è? Questo è super sidic. Va benissimo. Ce l'ho anche io. Mi sembra che mi avevi mandato la foto. pappagappa, questo è col, col 14 sempre. Va benissimo, col 140. Via. Il microfono a metà, così mi è stato regolato, per, perché se no dice ci va troppo rumore di fondo. Cazzo, dice sembra l'MC60. No. Vabbè, è stato cambiato il circuito, perché quel disgraziato, per non fare, per non dire altre cose, me l'aveva mandato rotto, e allora l'ho spedito a coso. Un amico mio gli ha ricostruito un circuito, capito? E così è. Infatti mi aveva detto, guarda che il nuovo circuito che ti sta mettendo va meglio anche del vecchio. No, il mio io l'ho restaurato, io l'ho tutto riverniciato, l'ho messo anche su Facebook dopo che l'ho riverniciato. L'ho fatto bene perché era un po' consumata la vernice, ma non che era o graffiato, si vedeva il bianco, era proprio un giallizza, come era vecchio. Ho preso, mi sono capintato, l'ho fatto perfetto, cazzo, non si vede nulla. Già l'ho visto, sì. E poi niente, gli ho cambiato il potenziometro che era un po' difettoso e gli ho messo il potenziometro nuovo. E anche a questo è stato cambiato il potenziometro, infatti mi ha rimandato il vecchio indietro e ricostruito il circuito. Gaba. Che microfono è, oh Luca? Questo che microfono è secondo te? Un MB4, non lo so, Turner. Sento del graffio sotto, così sotto, leggero. Lubizzoni, deve essere un canarino che canta. Ce ne hai? Ah, Natali, c'ho le quaglie, mi hanno fatto le uova. Ah, cappa, pure le quaglie c'hai. Le quaglie cinesi ciò, ma hanno fatto due uova già, adesso dovranno fare le altre. Sono appena più grandi di quelle dei canarini, e più scure sono, rimangono più scure. E quelle lì me le hanno regalate, e dai prendile, sono andate un amico mio, cazzo me le ha regalate i due, mi ha regalato una coppia e mi hanno fatto le uova. E cappa, uia. Io non ce la faccio neanche a tenere questa coppia. Si riburiu i capazzi, riburiu, a che un travaglio. Prenditi quello che ho preso io, non ti ripenti. No. Bah. Un messaggio mi è arrivato. Quelli sono belli, danno la soddisfazione, ti vanno sulle spalle, sul dito, da tutte le parti. Ehi, già li ho visti che sono belli, sono belli davvero visti. Belli sono. Adesso fra poco cominciamo a parlare, perché hanno 3 mesi ancora. E sono piccolini ancora. Uccide qua. Attenzione, un amico, che te li devono star bene. Non mi sento dopo. Attenzione un amico, tutti l'operatore di Jean doppio room della Ville Sassari. Attenzione monsieur, attenzione mon ami, quel è ton prénom? Je m'appelle Jean, quel è ton prénom? Je me trouve alla Ville Sassari, a 20 km da Porto Torres. Oui, j'avais compris. Natalia, io vai. Oh, ne ho voglia, no? Sto aspettando che arrivi la 50. Capa, attenzione, un amico, mi dai un segnale del radio di Santiago. Sai che tu non sei francese. io stavo abbozzando, ma lo so che non eri francese. Me ne sono accorto dalla pronuncia. Basso, basso, chi sei? Non ho capito, ti hanno sovramodulato. Chi sei? Stai uscendo con la tenina, ho capito, ma chi sei? Non riesco a capire chi sei. Ah, capa, sa. Capo, mi arrivi basso, Santiago di Uno. Non so come ti stia arrivando io, ma tu mi arrivi bassino. Poi ho capito, anche io. Io sto usando l'antenino della macchina, sono in macchina. Sono lì al quadrato, dai. Gaba. Avanti, Natalino. Sono qui, dai. Non lo sento, Alessandro. Perché c'è l'antenna bassa, no, non è colpa mia. Purtroppo c'è l'antenna... è troppo bassa, non imbatto. Ehi, via, Natalino non ti sente, ha detto Sa. Natalino, Carlo, ha detto che lui ti sente, tu non lo senti? No, io non lo sento, ma verità, spiegagli che c'è l'antenna bassa. Perché no, se no, se l'avrei sentito l'avrei risposto, no? È che non lo sento. Cava cava. Guarda, Natalino non ti sente per niente perché ha l'antenna bassa ed è in un vicolo, capito? Quindi non riesce a copiarti, Carlo. Carlo ti saluta, Natalino, e dice che siete un secolo che non vi ascoltate. Chi Carlo è? Spiegami chi è che... lo credo che sarà un secolo che non lo sento. Carlo D'Alghero. Ah, K. Carlo K. Kevud. Non trova barriera. Mi, ciao Cla, a te già ti sento. Beh, manicomio, dai, ci ho già salutati, ciao Carlè. Ciao a tutti, divertimento. Abbassa di voce, buonasera. Ho ritardato molto poco Carlè, non agio più grano, già dato io, adesso largo ai giovanotti. Valito tutto, mi sono trasferito in campagna, non sono più a casa a Carbonati, non ci abito più lì. Sono a 2 chilometri da Sassari, sempre più in alto, come Grappa Bocchino. E allora, si respira aria buona, almeno ho rotto le palle con il condominio. Dai che sto facendo cosa, che c'ho gente, stasera che c'è la partita e sto preparando la rostitura. Ciao a tutti, ciao Carlè. Ehi, ciao Claudio, dai, come ti arrivo da qua? Dove sei? Con chi sei? Sei per sé? Ti do la mia? Sono al parcheggio delle Querce, io non ti dico male. Guarda, sei 200 metri da me, sei quasi a fondo scala. Cava cava. Mi sono messo qua perché è più in alto del quadrato, a vedere se arrivo meglio, non impusto. Ehi, vabbè, sì, 200 metri da me. Se tu da lì vedi la voce di leva, la vedi? Io qua vedo la cabina dell'Enel dove sono io, però sono all'interno del parcheggio delle Querce, c'è un albero che fa ombra, mi sono messo lì. Sì, ma la voce di leva la vedi? Quella palla grande in cemento armato, non la vedi? Sì, lo so dove ha avuto l'incidente Pistoluzzi. Esatto, io sono di fronte. Ho capito. Vabbè, comunque sono salito qua perché ho detto magari da qui prendo ancora meglio. No, arrivi, c'è fondo scala già, non c'è problema. Dai, vi saluto ragazzi, ciao Carletto, un abbraccio. E ogni tanto molto poco, non agio più piano, ciao. Ciao Carle. Ciao Giulio. Ciao Carle. So che sta guardando la partita. Continuate, scusate, vai già. Dai, ciao Giulio, dai, buona partita. Cosa c'è oggi? Continuare. Ma la nazionale stasera con la Svizzera? Salotte d'Italia, salotte. Ho capito, dai. Vabbè, non ce la fai a stare qua, no? Sto guardando la partita già, fino ad oggi le ho viste tutte quante, tutte le partite che sono state giocate le ho viste, e sto guardando anche questa. Ehi, sto guardando quell'amico mio dell'Enel già, tutto di punti al buio lascio stanotte, così impari. Se non sta con la batteria della macchina e uso quella, voglio vedere se mi sa che anche quella. E già vengo con la mazzetta. Non so come fai, è poco sonato mio, se non si va si va e vinto, no? È tutta frusciata oggi, no? Qui non si passa, non passa lo straniero. Vai. Ma adesso è entrato anche Gianfranco che stasera. Gianfranco sta aspettando la gara ciclistica. Già lo so che anche lui è appassionato di ciclismo. Ma che non tu? Lo sport è sport, no? Lo sport è la salute delle persone. Quello sì. Qualche volta si muore anche. Speriamo che non succeda mai. Infatti. Continuate, dai. Che continua a guardare questo 0-0 fino a questo momento. Faccia a faccia, buon proseguo. Ma te ne è andato a te? Che all'ombra di un verde albero lui, al fresco lì. Ho capito. Me lo sentivo lì a Carlo, io a Carlo lo sentivo all'Alghero. Io no, esci 2 metri, non è manco, dalla cabicchiuglia e paghi su, c'ho l'antenna troppo bassa. Lo so, purtroppo sì. Vediamo se c'è ancora, però Carlo, ci sei? Carlo, sì, ti sento, ma sei molto basso, Giulio, non la sassa. Vabbè, dai, ti saluto, sto guardando la partita. Vai pure, c'è Natalino al momento, ma non ti sente, purtroppo non ti sente, lui ha l'antenna bassa, come me. Solo che io sono nella nostra posizione. Ok, cazzo. Beh, certo che sì. Va bene, dai. Scusami, ma continuo a guardare la partita, dai. Sino ad oggi non ne ho perso uno, le sto guardando tutte. Ci sentiamo, ciao Carlo, grazie per il contatto, ci sentiamo. Stata lì, ti saluto, dai, a dopo se coincide più tardi, perché continuo a guardarla, dai. Ehi, fai, fai, giù, io già sono in ascolto qua, sto aspettando che rientri da 50. Vabbè, dai, rimango in ascolto, se non c'è nessuno. Ok, ciao Carlo, alle prossime. Al momento, Gales 1, Turchia 0. Tattalino, che fai? Buonasera! Ma chi è là? E allora, buonasera. Buonasera. Che si dice, che si dice? Ma, sino adesso niente, che non c'era nessuno. Adesso che non si informa, vorrei che mi scegli come riescono già. Ma chi sei, oggi? Via. Sì, sono io. Come mi ascolti dalla macchina, Porto Torres? Ecco perché, non è tutto sul tuo segnale. Ehi, già stai arrivando bene. Ma che macchina hai messo? Ehi, da un becelo. Hai buttato la macchina nuova? No, antenna magnetica. Ok. Va bene. Com'è il segnale? 6, 5, 6, 5, 6. Ehi, va bene. Sono lontano, non sono in città, sono fuori città. Va bene, auguria. Mi ho trovato un posto al fresco sotto un albero e mi sono fermato lì. Andare, passi da solo, tutti quelli che sono in macchina. No, capo, sono solo, ho accompagnato la mia 25, l'ho accompagnata a lavoro e poi alle 7 e mezza devo andare a prendere, qui sto facendo orari. Ho capito. Vabbè, perfetto. C'era Natalino, Giulio che sta guardando la partita, Gianfranco che è andato a mangiare, insomma, un po' tutti si sono sparpenati. Io sono sto a lavoro, però avete che mi faccio quattro chiacchiere. E in casa non fa già stare, è troppo gare. Infatti allora mi faccio la luce, prendo la moto e esco. Infatti, mettetelo anche in moto il baracchino. Ho già predisposta quella lì, ho già predisposta per l'antenna. Io l'ho visto mio nell'LED Vision da, come si chiama, da Masala, e c'aveva il baracchino, e ho detto ma lo usi? Più che altro faccio ascolto, perché ce l'ho le cuffie nel casco, faccio ascolto e buco. Sì, manca la mia risposta. Usavo il baracchino nella moto, ma così. Infatti, non è che al limite se vuoi fare ascolto, l'ascolti, tu quando ti fermi ce l'ho più usato. Quando mi fermo al moto mi fermo perché sono in bar. Perché vai a ciucciare, no? Allora vado a ubriacarmi, a drogarmi, di tutto faccio. Fai bene, la vita è una. Tagliala come vuoi. Io ce l'ho una monopattina alla radio. Tu muto che ce l'avevi nella Vespa. Ce l'ho avuto sì nella Vespa. Era sopra il marciapiede, davanti al gradino di bottega, con l'antennino, con la frusta nera, anche con la colibri che avevo allora, parlavo con Fidano per molte ore. Oggi non ci si riesce nemmeno da stazione fissa. Ciao Eugenio. Ciao Giulio, buonasera, ben sentito. Sto guardando la partita, in questo momento è finito il primo tempo, fra un po' iniziare il secondo tempo e poi vi devo lasciare di nuovo, perché io sono malato di calcio. Prima c'era meno inquinamento atmosferico, oggi è per quello, adesso già viene poco l'inquinamento, le cellulari, chi dà. Va bene signori, ci sentiamo dopo, vi faccio la luce, ciao. Ciao oggi, alla prossima. Sì, quello è vero già, oggi ci sono troppi segnali, RF ci sono in aria, con tutte le radio private, TV private, varie, per cui è un po' più difficile, sicuramente così. Vabbè, pazienza. Ma infatti io col portatile arrivavo al ghetto da casa, capito? Non c'è nessun problema. Adesso vai e parla col portatile Alghero. Sentivo poco io, abbastanza piano, da stazione fissa qua, figurate un po', perché sono ai piedi di Monte Oro, ovviamente, per saltare il Monte Oro ce ne vuole, anche perché io sono in basso rispetto a Sassari, 90 metri più in basso rispetto a Sassari. Giulio, da qua come ti arrivo? Più forte o più basso di ieri? No, un pochino più forte, 9,5 come arrivi. Sono al parcheggio delle Quercie, sotto un albero al fresco, adesso però mi sto muovendo perché fra poco devo andare a prendere aereo. E mi faccio un giretto qua al quadrato e poi vado. E già è bellino là, c'è l'ombra, puoi parlare tranquillamente all'ombra. Beh, certo che sì, al fresco si sta bene, te lo credo. E vabbè, dai. Io sto aspettando che inizi il secondo tempo qua. E poi stanotte ci sarà l'Italia, speriamo che vinca l'Italia. Speriamo. Perché non è facile, con la Svizzera l'Italia ha sempre avuto un po' di difficoltà, però diciamo che, devo dire che oggi come oggi, dopo che ho visto tutte quelle partite, secondo me l'Italia ce la può fare tranquillamente, a qualificarsi bene, pari alla Francia e alla Germania, che sono, e anche un po' il Belgio, sono squadre che vanno bene. L'Olanda sì, ha giocato agonisticamente molto bene, però non ha molte conclusioni vincenti, dai. Cavagava, sì, la Francia è forte, come squadra è forte la Francia. La Francia secondo me al momento è la più concreta, però l'Italia se la può giocare anche con la Francia. Speriamo che riescano ad arrivarci. Ma infatti, speriamo bene, là. Perché se si incontra con la Francia vuol dire che sta facendo strada, Vuol dire che l'Italia sta facendo strada, perché sono sicuro che la Francia, intanto è la squadra campione del mondo in carica, primo. E poi devo dire che ha dei giocatori straordinari, veramente. Ma infatti. Vabbè, salvo per questa volta. Che Dio ce la mandi buona. Adesso vado al quadrato 5 minuti a vedere com'è la storia. Ma al quadrato però non ce n'è ombra, lì adesso è tutto sole. Ma ieri guarda c'era il sole, però c'era una pietra che mi passava attraverso i finestrini che era molto piacevole, non sentivo il caldo. Lo so, quando sì c'era un pochino la pietra, oggi invece non c'è niente, oggi è tutto tranquillo. Va bene così, oggi nemmeno prendo tutte le mie spalancando finestre qua, non tira corrente per niente. E io ho già attaccato il condizionatore, non si poteva stare a casa. Ho attaccato il condizionatore e ho chiuso tutte le finestre perché tanto entrava aria calda e non faceva aprire le finestre. Certamente sì, d'altronde oggi sono 33 gradi, mi sembra, 32-33 gradi, per cui a voi a caldo ne ha fatto tanto. Qua in macchina me ne segna 28. Sì, va bene, in macchina sì, d'accordo, anche perché la macchina ti muove, eccetera, e dunque quando tira l'aria la macchina stessa raffredda. Però al momento non lo so quanto possono essere, però oggi ha raggiunto i 33 gradi. Poi ne ho trovato un posto al quadrato all'ombra, dai, che ci sono gli alberi che fanno ombra. Bene, mi sembra. Benissimo, Santiago 9. Poi mi qua l'ho trovato, un parcheggetto piccolino all'ombra. 8,5, la per esattezza, 8,5. Più prima è un po' più forte. Va bene, dai, andiamo bene. Vabbè, dai. Nel frattempo sto guardando anche la partita, hanno ripreso a giocare. E io adesso ne smonto tutto giù e tanto fra poco devo andare. Ok già. Ma cosa hai fatto? Te l'hai attaccata con la stampa oppure te la metti dentro il cassetto? No, l'antenna la metto in macchina, dentro la macchina. Capito? Non è attaccata con la staffa, è con la base magnetica. Allora la radio è posticcia così? No, la radio è fissa. È fissa? È anche fissa. A casa, vabbè, dai posto macchina tu, però non mi stai fidato. No, fissa nel senso che ho fatto un impianto fisso, quando vado a casa la tolgo. Allora sì, non avevo capito. Così, certo, non ti fidare, Oia. No, ma non tanto per la radio, che poi anche per qua devo sarebbe un peccato. faccio? Basta che ti fa cavare il metro, già lo sai come funziona, no? Con questi delinquenti che ci sono in giro. Avanti, Alice. Ehi, buonasera, buonasera. Ce lo sai che tu non puoi nemmeno premere la portante con me. Sì, va bene, allora già vi te la conci. Ci sono entrambi gli apparati. Buonasera. Buonasera a tutti e due, ben ascoltati. E all'ombra, lì, come ti arrivo? A un paesaggio. Cavo cava, in macchina. 9.30 a sera di 5. Va bene, già va bene. 9.30 di... Va bene, dai, va benissimo. Sa che tu già arrivi bene qua. Alice, già va bene, anche tu arrivi bene. Bene, mi senti in radio? Sei a voglia, ti senti ascolto bene. Vabbè, io sono con FM500S e liscio. In linea c'è la mia sorella in terrazzino, che è stato col baracchino, con le 4.000. E quindi... Vabbè, gli ho dato lineare io, quello tassistorizzato, e non è un problema. Giovanna non sta più entrando. Sì che sta entrando, Giovanna. Entra dopo le 8:30, le 9 di sera. Mi chiama e... è entra a baracchino, capito? Entra a quell'ora lì, io a quell'ora non accendo mai, c'era il televisore a quell'ora lì. Ecco perché, perché entra tardi. Vabbè, lei già lo sa che fino a quell'ora c'ha roba da fare, quindi l'unico orario è verso le 8:30, le 9, che c'è un po' di libertà, e non ci sono i bambini mezzi e piedi, capito? Quindi entrano una mezz'oretta e poi chiude. Cava. Vabbè, dai, io vi saluto che sto chiudendo, dai. Devo fare roba. Ci sentiamo, lì, ciao anche a Giulio e tutti gli altri amici che sono in ascolto, dai, ci sentiamo. Ok, ciao Gian, ci sentiamo alle corse. Ciao Gian, ci sentiamo, io sono entrato, buonasera, sono io. Ciao Eugenio, ciao, ci sentiamo, buonasera. Ciao Gianni, ci sentiamo, ciao Eugenio, barrato. Io imbarrato da ciò, che ne ha detto? Tutto a posto, tu vado, come va? Tutto a posto, si lavora. Andiamo anche al capo del piede. Si lavora e basta. Sì, con questo caldo ti voglio vedere a Palazzo Vassili, mamma mia, vicino al mare poi, mi dà, ti fa bello. Da oggi il mezzo che uso io mi segnava 50 gradi, 49,9 all'interno. Sì, ora, meno male c'è l'aria condizionata. Così lì, è dal forno, davanti al forno vedi? Ma non le uso, se no ti crepa, c'è le scene, non so, ti crepa. Quindi, soprattutto quello che c'è a aprire, tettuccio, finestrini, finestrini laterali. Tutto, faccio passare aria, se no mi segnava 49,9, 50 gradi praticamente. E questa è l'anima. E come fatto a respirare? Ti hai portato anche la bomba di ossigeno? Ci prendiamo le bottigliette piene di ghiaccio, ci mettiamo il frigo, da noi giù abbiamo il frigo, dove ci cambiamo, abbiamo il frigo, ce le mettiamo piene di ghiaccio, ogni tanto ce le buttiamo addosso, ce le beviamo. Mica sono tante, 50 gradi, 49 gradi, e va bene, già ha fatto caldo, però arriva a quella vedura lì, ce ne vuole molto. Va bene, dai. Stavo dicendo lì, tu mi arrivi bene con quelle FM500S, ce n'è una in vendita. Per chi interessa di FM500S? Giù, tieni conto che io ho il motore a fianco a me, capito? Il motore scalda, così che fuori ci sono 28 gradi, quindi con il motore caldo più i gradi ci sono fuori, è logico che raggiungi quelle temperature. Ma lei qualche giorno ci mettiamo una cosa, ti porto il mio Galaxy a farlo funzionare. Cioè funziona, portalo girare, vedi un po'. Andate, Eugenio. tante sono, una sofferenza lì in estate, voi in verno va bene, in verno riesco a bene, ma d'estate la sofferenza è enorme, per forza dimagrisci a mare gara. D'estate infatti noi soffriamo parecchio, e purtroppo, vabbè, prendiamoci la salute. Vabbè, quando senti ci va bene. Allora ti può, se riesco ad arrivare il 9:20 da te. Ho detto, se riesco ad arrivare il 9:20 da te, con 10 watt. No, 9:05. No, stavo parlando del pompugno, no? No, non da te, al contrattore del resto. Il pompugno sto parlando, pompugno, oggi sì. E poi lì due, mi è caduta la sedia, e oggi. Ma te lo sto parlando di un attimo. Va bene, dai. Pompugno, sparito, sì. Aspetta, arrivo subito. Hola, chico. Yeah.